Thank you. Thank you. Thank you. Ma no, tutti a tempo. La batteria e il basso. Thank you. Thank you.